prendi la promessa. Non ancora. Vuoi un salvacondotto onde fuggir dallo stato con noi? Partir dunque. Via scegliete la più breve. Civitovecchia.